Ingrid. Parcheggiò su una piazzola di carico e scarico davanti al complesso immobiliare Garnisonen a Östermalm. Si voltò. Lovisa era ancora immersa nel suo iPad. «La mamma torna subito, tesoro», disse Ingrid aprendo la portiera. Controllò che non ci fossero vigili nelle vicinanze e uscì. Una classe di bambinetti con pettorine giallo fosforescente le passò accanto mentre lei apriva la porta dell'ufficio postale, lasciando uscire una signora anziana. Niente telecamere, a quanto poteva vedere. In realtà non aveva nessuna importanza, doveva solo ritirare una busta da una casella postale. CP1905. Era stato facile memorizzare il numero, perché era l'anno in cui la Norvegia aveva dichiarato l'indipendenza dalla Svezia. Una volta dentro, Ingrid girò a destra e si fermò davanti alla lunga fila di cassette metalliche. Stava per togliersi i guanti, ma poi cambiò idea. Arrivata di fronte alla casella giusta, estrasse la chiave dalla borsa e la aprì. Dentro c'erano due buste. Le prese entrambe, ma poi rimise dentro quella su cui c'era scritto 3, in una calligrafia all'antica. Lei era il numero 2 in quella faccenda. Prese una terza busta dalla borsa e mise anche quella nella casella. Si domandò chi fossero le altre due donne. Si erano conosciute su familielive.se, dove si erano lamentate delle loro vite, cercando aiuto e sostegno. Poi erano passate su una chat criptata che Ingrid conosceva perché era molto usata tra i giornalisti. Ed era lì che avevano iniziato a delineare il piano. Preferiva non interrogarsi troppo sulle altre due. Come lei, dovevano avere i loro motivi. E meno sapevano le une delle altre, meglio era dal punto di vista della sicurezza. Negli ultimi tempi, Tommy aveva dormito fuori 2 o 3 sere alla settimana. Ingrid si chiedeva che cosa avesse raccontato all'amante. Giulia doveva pensare che fosse proprio disperata per permettere al marito di avere una relazione. Chissà se ridevano di lei. Ma non aveva nessuna importanza. Infilò la busta nella borsa, richiuse la cassetta e uscì dal piccolo ufficio postale. Lovisa non alzò nemmeno la testa quando sua madre aprì la portiera e si sedette al volante. «Adesso torniamo a casa, tesoro. C'è il papà questa sera?» Ingrid scosse la testa. «No, stasera no. Ma domani ha promesso di venire».